e molto meglio il cammino su un sentiero di lino che una qualunque passeggiata in mezzo alla carreggiata. Che una qualunque passeggiata in mezzo alla carreggiata. Cammino del Gigi D'Agostino. Bello, bello. Right up. Gigi D'Agostino. Un piccolo paese fuori dal mondo. Te dico fermale. Eh? Fermale. Sì, sì, ho capito. Stai ascoltando Gigi's Love. Marzo 2006, ore 22:30 circa. Discoteca Ultimo Impero, via Autostrada 1, Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino, che sono io, Luca Nois, che è lui, e Daniele Mondello, che è l'altro. Ci vediamo lì. Di venerdì. Electro Gods, Adam Bound, Techno Ones, Bacon Dots, Electro Gods. qua che stai ascoltando è Wherever Love Transistor. So many miles I travel all around the world and I didn't know anything about you.

Bello, bello, bello questo qua. The Final Countdown, il folclorista. Preciso. Down with careless emotions. Your behavior has to stop. Sì, ho capito. Siento tu voz che mi sta trasportando. Non giochiamo. Siento che sta trasportando. Siento che sta trasportando. Siento che sta trasportando. Luca Noise. Siento tu voz che mi sta trasportando. Locamente innamorata. Locura infinita. Esta noche necesito una luna de la sedación. Rallenta. Titolo? Ragatanz, la tana del suono. La trovo in vendita o me la devo scaricare? Mo ci attacchiamo tutti al cazzo. Ci attacchiamo. A cosa? Lo so. Però M2O. La manca tu de was my blue white over nose my beer fear up. Pass me the chill up is a beer for me tear up. Manca tu de was my blue white over nose my beer fear up. Pass me the chill up is a beer for me tear up. Manca tu de was my blue white over nose my beer fear up. Pass me the chill up is a beer for me tear up. Manca tu de was my blue white over nose my beer fear up. Venerdì 17 marzo 2006, ore 22:30 circa. Discoteca Ultimo Impero. Via Autostrada 1, Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino, che sono io. Luca Nois, che è lui. E Daniele Mondello, che è l'altro. Ci vediamo lì. Di venerdì. Stai ascoltando Cresca Losca, Lento Violento Man. Cammino di Gigi D'Agostino. Per votare basta cliccare www.gigidagostino.it. gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Dai che famo notti. Ti si apre la paginetta e scegli la canzonetta. A fianco al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Chi vota poco resterà piccino. Il sondaggino di Gigi D'Agostino. Destino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Questo disco qua che stai ascoltando è... Cielo, artista non pervenuto. I feel like the universe felt away. ascoltando, fratello? Crazy Luca Noi. Dai e po' sulle mani. Super crazy, ill, ball, right, ball, ill, ball, super crazy, ill, ball, right, ball, right, ball, super crazy, ill, ball, right, ball, ill, ball, super crazy, ball, right, ball, right, ball, super crazy, ill, ball, right, ball, ill, ball, super crazy, ill, ball, right, ball, right, ball, super crazy, ill, ball, right, ball, ill. Dino. I will never forget.